Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si legge il romanzo di un esordiente e si vede che ha talento, diciamo che si prova una sorta di brivido di felicità, insomma, perché si intuisce che c'è una nuova voce nel panorama letterario. È quello che mi è capitato leggendo Città sommersa di Marta Barone, pubblicato da Bompiani. Beh, c'è da dire che Marta Barone non è propriamente un esordiente, nel senso che ha scritto altri libri, ma erano libri per bambini e ragazzi. Questo, diciamo, è il suo primo romanzo per adulti, definiamolo così. È un romanzo dichiaratamente autobiografico, che nasce nel momento in cui Marta Barone, dopo la morte di suo padre, scopre, diciamo, una serie di vicende che riguardavano appunto il padre. Lei sapeva vagamente che il padre aveva subito un processo per partecipazione a banda armata per aver curato, lui era un medico, un esponente di prima linea, siamo nei primi anni Ottanta. Quindi diciamo che tutto il romanzo è una sorta di indagine di una figlia alla ricerca di suo padre, attraverso le carte processuali, ma soprattutto attraverso i racconti delle persone che lo avevano conosciuto. Allora Marta, mi è piaciuta molto questa idea dell'indagine su un padre. Tu all'inizio del romanzo dici che i rapporti con tuo padre erano piuttosto difficili, tu sapevi veramente poco di lui, anche della sua infanzia, delle sue origini, insomma era una persona che tu conoscevi appena. Sì, della sua infanzia in realtà non sapevo assolutamente niente, è proprio stata una persona che ha eliminato il suo passato in maniera completa, ma lo ha fatto con tantissime persone, non solo con me. E quando ho chiesto a mia madre come mai si comportasse così, lei mi aveva risposto che divideva la sua vita in compartimenti stagni. In questo caso però mi è sembrato di vedere qualcosa di diverso, cioè non era soltanto la questione del compartimento, dell'abbandono del compartimento precedente, ma anche il fatto che ci fosse una sorta di rimozione. Allora, l'indagine sul padre è un genere, se vogliamo, piuttosto diffuso, nel senso molte persone hanno scritto in questo senso, ma del resto si scrivono sempre le stesse cose in qualche modo. Più che indagine forse la chiamerei una ricerca, perché comprende tantissime cose insieme. Tutto è partito appunto leggendo queste carte 2 anni dopo la sua morte, quindi nel 2013, carte di questo processo che erano la memoria difensiva che il suo avvocato portava in Cassazione per l'ultimo processo, e in cui vedevo che c'era un personaggio veramente sconosciuto rispetto anche dai racconti dagli estratti delle testimonianze degli altri, mi appariva veramente un personaggio completamente diverso, un politico attivo, uno che lottava moltissimo, e mi ha intrigato, ha suscitato il mio interesse. E più tardi, parlando appunto con moltissime persone, questa idea appunto che ci fosse qualcuno di diverso prima del carcere e poi qualcun altro, qualcuno in qualche modo una versione impoverita, depauperata della sua speranza, di tutta una serie di cose, me l'ha confermato la sua prima moglie, che mi ha parlato letteralmente di uno scarto tra l'uomo che era prima e l'uomo che era dopo. Questo per dire che non è stata un'indagine, nel senso che non c'era un mistero giuridico da scoprire, non so come spiegare, ma c'era la ricerca di chi fosse questa persona, che poi a un certo punto diventando mio personaggio ho dovuto mettere una distanza e ho ribattezzato LB. Infatti in tutto il romanzo la figura di tuo padre non ha mai un nome o cognome, tu gli dai appunto queste iniziali L.B. A proposito di Agata, per esempio, che è stata la prima moglie, attraverso i racconti di Agata, ma così come dell'avvocato, comunque di altre persone che avevano conosciuto LB, si ha un'idea di un uomo anche caratterialmente molto diverso da quello quello che la figlia aveva conosciuto. Cioè se ne ha una sorta di puzzle molto molto diverso, perché se da un punto di vista è logico che le carte processuali restituiscano un'immagine diversa, c'è il momento per esempio in cui si leggono le parole dell'accusa, che addirittura secondo un testimone tuo padre sarebbe potuto essere pericoloso, attentare quasi alla sua vita, quindi lì ci sta, però anche le persone avevano un'immagine molto diversa da quella che avevi tu. Sì, è vero, avevano immagini diverse a seconda del tipo di approccio. Agata aveva un eroe di bontà e di generosità che si spendeva per gli altri, cosa che era una parte effettiva della sua esistenza. Agata, consideriamo il fatto che si è sposata con lui molto giovane, quindi c'era anche una venerazione da ragazzina, ecco, che adesso ovviamente col passare del tempo si è trasformata in semplice affetto, ammirazione. Ma anche i suoi amici più, diciamo, più lucidi, più sgamati, come dire, avevano sempre questa immagine veramente quasi lirica di LB, che aveva questo fascino, questo carisma, questa gentilezza che poi metteva appunto attivamente nella lotta politica, nell'attività politica, ma che soprattutto era qualcosa di umano su cui gli altri potevano fare affidamento continuamente, ma da cui non riuscivano mai a trarre, ed è questa la cosa più interessante, la cosa su cui ho cercato di lavorare dal punto di vista della scrittura e dello scavo, non ricevevano mai, come dire, un segnale di chi fosse lui realmente, di che cosa provasse, di che sentimenti provasse. Lui si dava completamente agli altri, dico a un certo punto, ma agli altri non si dava. E infatti un personaggio a un certo punto mi dice: nessuno può dire di averlo conosciuto realmente, pur avendo magari, approfittato una parola brutta, ma avendo ricevuto le sue cure, il suo affetto per un periodo. Lui si occupava di tantissime persone, quindi moltissime ne hanno un ricordo pieno di gratitudine, ma se avessero cercato di spiegarmi chi era davvero, c'era solo questa immagine favolosa che faceva parte anche del suo fascino, mentre il padre che io conoscevo era molto terreno, estremamente terreno, piuttosto irascibile, con me ha avuto un rapporto piuttosto basato sull'aggressività, soprattutto perché non sapeva come avere a che fare con una bambina, benché mi adorasse, mi amava in un modo sbagliato, troppo irruente, troppo. E mi sembrava soprattutto poco interessante. Tutti mi dicevano è coltissimo, è intelligentissimo, ma io lo sapevo che lo era, ma questa intelligenza mi passava molto raramente. Ecco, sicuramente LB è una persona, personaggio appunto perché è una persona vera, molto affascinante. Tu ricostruisci chiaramente a spizzichi e bocconi la sua vita personale, emotiva, ma anche la sua vita di impegno civile e politico. Noi vediamo appunto che lui è laureato in medicina, fa il medico, poi a un certo punto si trasferisce a Torino dove va a fare l'operaio della Fiat. C'è il momento in cui aderisce al partito Servire il Popolo, che era un partito marxista-leninista, e accetta delle regole, insomma, che oggi ci sembrano anche abbastanza assurde. Che idea ti sei fatta di tuo padre dal punto di vista proprio dell'impegno politico? Tu hai ricostruito anche uno scenario che oggi ci sembra veramente insolito. Sì, chiaramente bisogna tenere sempre in mente quello scenario, perché altrimenti è molto difficile capire alcune cose. Quando per la prima volta io ho saputo che mio padre aveva militato in Servire il Popolo, sono rimasta allibita, perché era la cosa più lontana da lui che potessi immaginare, appunto perché era un partito chiesastico, molto improntato all'adorazione del leader, che imponeva delle regole monacali praticamente ai suoi e richiedeva tutti i loro soldi, altra cosa che li faceva vivere in condizioni di povertà estrema. Non ho mai capito esattamente perché fosse entrato in un partito del genere. Penso che fosse per un suo bisogno, una sua necessità di ordine, in un momento in cui l'Unione dei Marxisti-Leninisti è comparsa a Roma, quando il movimento studentesco a metà circa del 68 stava iniziando un po' a perdere le linee, ormai c'era molto disordine e quindi le persone che volevano veramente fare qualcosa cercavano cose più rette in qualche modo e quindi probabilmente semplicemente ha trovato un partito così strutturato che si è sentito bene lì dentro. E anche le persone che poi ho conosciuto, che sono state in Servire il Popolo qui a Torino, sono comunque sempre delle persone che non hanno assolutamente, non danno l'impressione di essere appartenuta a una setta, ma di aver fatto per un certo periodo qualcosa dentro un partito che consideravano valido in quel momento. Poi lo hanno abbandonato quando si sono resi conto che stava degenerando. E così è stato anche per mio padre, che poi è diventato letteralmente un cane sciolto ed è entrato in quella che viene chiamata in maniera piuttosto vaga l'autonomia operaia, ma non l'autonomia operaia partito, l'autonomia. Purtroppo non ha lasciato scritto nulla, quindi sul suo pensiero politico ho fatto fatica a risalire, a ritrovare qualche cosa, a capire che cosa pensasse davvero. Sicuramente era uno che si impegnava tantissimo sul terreno, quindi nelle occupazioni di case, nell'aiuto agli immigrati che arrivavano e venivano buttati nelle cantine, nelle soffitte, questi andavano, facevano volontariato in sostanza. Quindi io penso che lui fosse soprattutto uno di parola ma anche di pratica, cioè cercare di aiutare nella continuità. Questo è poi quello che si è poi evoluto nella sua vita, nella sua esistenza successiva, dopo una pausa e una grave depressione. Ecco Marta, in questo romanzo tu dici anche esplicitamente che LB, tuo padre, non ha mai voluto scrivere un memoriale, quindi tu veramente hai dovuto ricostruire lentamente tante tante cose, sia episodi che soprattutto emozioni e sentimenti. Ricordiamo che tuo padre era stato arrestato nel 1982, appunto, con l'accusa di partecipazione a banda armata perché aveva curato come medico un esponente di prima linea, poi è stato assolto nel 1982. Che idea ti sei fatta tu del modo in cui lui aveva vissuto quella vicenda giudiziaria e secondo te perché non te ne ha mai parlato? Allora, questa è una domanda che mi mette un po' in crisi perché in qualche modo costituisce un po' uno spoiler, nel senso un po' un'anticipazione di quello che scrivo nel libro. E dato che è frutto di molti passaggi, preferirei lasciare la risposta al lettore eventuale che voglia cercarla, perché ci ho messo molto tempo a immaginare che cosa potesse aver provato e questo passa nel libro. Il libro segue un percorso, segue il percorso meta letterario della mia esistenza mentre scopro queste cose e quindi in un certo senso c'è una presa di consapevolezza continuata, un passaggio dalla cecità a una sorta di visione che però appunto vorrei non anticipare se possibile. Assolutamente sì, naturalmente. Mi sembrava chiaramente, effettivamente, è il nucleo fondante del tuo romanzo. Venendo invece alle persone che tu hai incontrato per ricostruire appunto la storia di tuo padre, chi è che ti ha dato una visione, un punto di vista, un'angolatura, una spigolatura che tu veramente non avevi mai preso in considerazione? Ma sicuramente Agata, perché è stata la prima e perché mi ha mostrato veramente un uomo di cui io non avevo la più pallida idea. Forse le testimonianze più commoventi sono quelle che giungono adesso, dopo il libro, da persone da tutta Italia, uomini e donne, che mi scrivono: ma io l'ho conosciuto, che scoprono adesso che è morto. E mi raccontano episodi della loro militanza politica insieme che hanno vissuto magari solo per un periodo a Torino. E questo significa che comunque quest'uomo ha veramente sparso dei semi, perché tutte queste persone lo ricordano con una commozione, un affetto e una precisione incredibili. Grazie Marta Barone, ora in libreria con Città sommersa pubblicato da Bompiani. Questo è un romanzo, tra l'altro vi ricordo che è uno dei 12 candidati al Premio Strega ed è un romanzo che vi consiglio vivamente per come è scritto, per quello che racconta e per lo sguardo che l'autrice riesce a dare su tutto quello che racconta. Grazie Marta. Grazie Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Ci sarà l'esposizione universale del 2015, si parla. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da 1 centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Il cacciatore di libri. Non si è al sicuro in nessun posto. Mi ricordo benissimo della prima volta in macchina. Avevo 4 anni e lì non era mai successo fino ad allora, quindi pensavo che fosse un luogo protetto. Che delusione quando mi arriva il primo pugno. Aveva fermato la macchina per girarsi e darmelo forte. Questo è l'incipit, decisamente forte, duro, aspro, del romanzo Per il mio bene, scritto da Emma Stoccolma, pubblicato da HarperCollins. Emma Stoccolma è una DJ, una conduttrice radiofonica, televisiva, e ora ha deciso di raccontare la sua storia perché l'ha dichiarato proprio pubblicamente che si tratta di un romanzo totalmente autobiografico. Dicevo, ha deciso di raccontare la sua storia, nella sua famiglia, dalla storia delle violenze che lei e suo fratello hanno subito dalla madre fin da quando erano piccolissimi. Loro vivevano nel sud della Francia, perché Emma Stoccolma, lo ricordiamo, è anche uno pseudonimo. Lei nella vita normale, diciamo, si chiama Morwenn. Vivevano appunto con la madre nel sud della Francia. Il padre era un italiano, si erano incontrati insomma sostanzialmente per caso, quindi loro vivevano solo con la madre, che per anni appunto ha compiuto queste violenze nei confronti dei figli. Ma quando si legge il tuo romanzo si ha veramente una sensazione di sbandamento, si rimane anche molto turbati per le scene che tu descrivi e per il fatto che il lettore sa che sono tutti fatti veri. Perché hai deciso in questo momento di raccontare la tua storia, che è una storia appunto così privata e così particolare? Ho deciso di raccontarla perché mi rendevo conto che non era soltanto la mia storia, è la storia di molte persone. E mi sono sempre un po' vergognata a raccontare questa storia. Quando ho visto invece l'ennesimo caso di cronaca sui social, con annessi ovviamente commenti di persone sconvolte, no? Sto parlando di Giuseppe, un ragazzo nella provincia di Napoli che è stato picchiato a morte, purtroppo, dal suo padre. Quindi è morto in casa con il collo spezzato. Questo bambino ovviamente andava a scuola, questo bambino era pieno di lividi, aveva una sorellina a cui mancava un pezzo d'orecchio. Quando ho letto i commenti indignati delle persone a fatto compiuto, ho detto: ok, devo raccontare questa storia perché devo raccontare che questa cosa succede, non possiamo più rispondere alle persone che provano a raccontare una storia simile dicendo vabbè, ma la mamma è sempre la mamma, per esempio, no? Oppure bisogna andare avanti, comunque gente che cerca sempre di minimizzare. In più ero sconvolta dai commenti sotto di odio profondo verso questi genitori, giustamente. Però in realtà è molto più complesso, bisogna andare oltre i primi sentimenti che si provano quando si sentono storie del genere. Bisogna provare empatia ovviamente in primis per i bambini e bisogna cercare di provare empatia per dei genitori che non ce la stanno facendo, sono persone che sono da condannare ma sono anche da aiutare. Allora ho 36 anni, ho sentito questa storia, ho approfondito un po' questo caso qua e ho detto ok, adesso io racconto cosa mi è successo per anche far capire che sì, puoi avere una storia del genere e comunque stare anche bene, no? Io sono una persona molto felice. Allora ho voluto metterlo nero su bianco e aprirmi, non per essere compatita, ma per aiutare le persone ad aprire gli occhi e a fargli capire che se sentono delle urla nella casa accanto o se vedono un bambino con dei lividi, forse non bisogna aspettare che si arrivi a quel infatti punto. Tu nella postfazione, diciamo, del romanzo scrivi che la colpa appunto non è solo del genitore, purtroppo sono tue parole, la colpa è anche delle maestre, dei vicini, la colpa è vostra ed è mia, non è perché abbiamo paura di accettarle che certe cose non accadono. Effettivamente nella tua storia l'altra cosa che colpisce particolarmente è che chi a commettere violenza sia la madre, perché mentre si è più abituati, diciamo, a pensare ad un uomo, ad un padre, in questo caso è la madre. Tua madre ha iniziato a picchiarvi che voi eravate piccolissimi, descrivi appunto la scena iniziale, tu avevi 4 anni, lei ti diciamo vessava psicologicamente e fisicamente, diceva, ti accusava di voler essere sessualmente provocante, vi accusava anche di avere delle malattie mentali e si giustificava dicendovi che vi doveva picchiare per il vostro bene. Che cos'è che vi diceva in quei momenti? In quei momenti diceva che noi, praticamente lei riversava in noi tutto quello che succedeva nella sua testa, quindi se lei pensava una cosa era quella e basta. Lei diceva sempre io so qual è la verità, mia madre era profondamente malata e quindi aveva veramente tanto bisogno d'aiuto. E in quei momenti, esatto, sicuramente la violenza fisica a me mi sconvolgeva, mentre mio fratello si è chiuso molto di più e poi ne abbiamo parlato tanto, insomma lui le botte riusciva ad accettarla più facilmente perché si chiudeva in sé e aspettava che passasse quel momento. Io invece soffrivo tantissimo, il dolore fisico lo sentivo veramente tanto, devo dire che però quello invece psicologico era ancora più subdolo perché erano cose che rimanevano. In più ho capito a 4, 5, 6 anni che anche se tu non hai fatto una cosa, ma una persona ti fa passare una notte in bianco picchiandoti, come purtroppo a volte succede anche per alcune confessioni, no? Abbiamo sentito tante volte casi di innocenti nel braccio della morte, perché io mi rendo conto che veramente dopo un po' sei stremato e ammetti qualsiasi cosa. Perciò io ammettevo dei fatti che non avevo mai neanche pensato, immaginato, e quindi era un'escalation di violenza, perciò la volta dopo era ancora peggio perché lei si riferiva poi a quello che era successo la volta prima. Io avevo detto sì, è vero, l'ho fatto, perché semplicemente volevo che lei smettesse. Ecco, l'altra cosa che stupisce leggendo il tuo romanzo è che tu racconti che appunto tua madre vi accusava di avere dei disturbi psicologici e per questo vi mandava dagli psicologi, eravate anche seguiti dagli assistenti sociali, tu e tuo fratello, eppure tu non hai mai parlato con gli psicologi e gli assistenti sociali. Perché non hai mai chiesto aiuto? Perché sapevo che non mi sarebbe stato dato questo aiuto, perché quando io scappavo di casa, per esempio la prima volta che sono scappata di casa avevo 6 anni e mezzo ed ero in accappatoio perché sono scappata proprio durante un episodio di violenza e nella mia testa il mio istinto di sopravvivenza mi ha detto ti sta per uccidere. E quando Ho capito, lì che comunque mi avrebbero sempre riportata a casa. La seconda volta mi ha trovato la polizia, mi hanno portata a casa, nessuno mai mi ha chiesto, anche gli assistenti sociali, nessuno mai mi ha detto cosa succede veramente, ma vostra madre vi picchia. Io non ho mai sentito questa domanda, quindi sai, perdi la fiducia negli adulti, non ce l'hai, perché comunque mio padre era assente, magari a volte diceva sto arrivando e poi passavano anni e non si vedeva nessuno. Mia madre mi metteva in situazioni di pericolo praticamente ogni giorno, quindi io non mi fidavo degli adulti, mai sarei andata da un adulto a dirgli aiutami. Gli assistenti sociali, i psicologi, le maestre devono vedere, non deve essere il bambino a chiedere aiuto. Insomma, se ti avessero magari fatto qualche domanda, forse tu avresti risposto. Sì, avrei risposto comunque anche nelle risposte dei bambini, bisogna saper leggere tra le righe, credo. Poi non è il mio lavoro, purtroppo, mi piacerebbe, ma bisogna essere preparati, no? Bisogna vedere, bisogna leggere un po' negli occhi di un bambino che non sa mentire così bene. Ci sono tantissimi assistenti sociali veramente bravi. Purtroppo leggiamo anche casi invece in cui il loro lavoro è disastroso. Quindi è un lavoro molto difficile che io rispetto tanto, però mi rendo conto che ci sono molte lacune. Ecco, nel tuo romanzo ci sono molte parti drammatiche, veramente ci sono le scene in cui tua madre ti sveglia di notte solo per picchiarti, c'è la scena della doccia, della vasca da bagno, insomma sono delle scene molto crude. In tutto ciò c'è il rapporto fra te e tuo fratello Wendell, che è più grande di te di qualche anno. Ecco, voi venivate entrambi picchiati da tua madre, tu dici mai contemporaneamente, a volte se la prendeva solo con me, poi c'erano le giornate che se la prendeva solo con lui, e fra voi due voi non parlavate mai di questa violenza, però c'era come un tacito patto. Che rapporto c'è? C'era e c'è tuttora con tuo fratello? Quando eravamo bambini il rapporto era quasi invisibile. Evidentemente c'era, ma non riuscivamo a vederlo e a toccarlo, questo rapporto, perché appunto io da bambina incosciente, quando toccava a lui ero quasi contenta, perché io avevo due giorni di sospiri, di calma e di tranquillità, e quindi potevo farmi gli affari miei e sapevo che toccava a lui, e mi sentivo anche in colpa per questa cosa, era terribile. E quindi noi per molti anni non abbiamo potuto avere un rapporto tra fratello e sorella. Ogni tanto c'erano dei giochi, ogni tanto c'erano delle risate. In realtà mio fratello era l'unica persona che mi faceva ridere, quindi questa cosa sicuramente mi ha aiutato e mi ha salvato. Poi io sono scappata di casa a 15 anni e lì c'è stato un grande, grande, grande vuoto tra me e lui, che è durato qualche anno. Perché io non capivo la sua reazione, non capivo perché lui non se ne andava, e lui forse non capiva perché io ero scappata così per farmi la mia vita, e non capiva che tipo di vita volevo fare anche. Quindi facevo la modella, andavo in discoteca, e lui probabilmente pensava che io fossi un po' leggera come persona. Poi è successo che a un certo punto lui ha avuto bisogno, perché era una persona un po' allo sbando, era grande già, e ha avuto veramente bisogno di una mano, e io ho potuto dargliela grazie ai miei amici, che sono diventati una famiglia per me, e essendo la mia famiglia sono riusciti anche ad aiutare lui, quindi lui si è sentito amato, si è sentito protetto, si è sentito, credo, non più solo, e ha visto che la mia vita, cioè in fondo non era così leggera e così, no, così futile, non lo so, priva di profondità. E allora lui è cambiato nei miei confronti, io sono cambiata nei suoi, ci sono stata quando lui ha avuto bisogno, e da lì in poi non ci siamo mai più mollati. Adesso abbiamo un rapporto incredibile, e mio fratello è la persona più importante che c'è nella mia vita, e questo libro l'ho scritto anche chiedendo ovviamente il suo permesso, ma anche per lui. Abbiamo fatto un grande lavoro io e lui mentre scrivevo. È stato tosto ovviamente per lui leggere alcune cose alle quali lui non assisteva oppure non si ricordava, ed è stato tosto per me condividere queste cose con lui e capire il suo punto di vista, e ci siamo veramente capiti. L'incomprensione è la cosa che ci ha divisi nel periodo, diciamo, dell'adolescenza, e adesso invece non ci sono più incomprensioni tra di noi. Ecco, tu racconti nel romanzo che a 15 anni sei scappata di casa, sei poi arrivata in Italia e sei riuscita a liberarti appunto della presenza di tua madre, sei riuscita a costruirti la tua vita. Tuo fratello invece è rimasto con tua madre ancora per un po' di tempo. Poi tua madre muore, tu lo racconti nel romanzo. Tu la vedi solo due volte dopo essere scappata di casa e c'è una scena molto molto intensa in cui dici che era un essere umano che non ce la faceva. Provo una cosa che non avevo mai sentito prima nei suoi confronti: empatia. Quindi alla fine sei riuscita a provare empatia per tua madre, ma l'hai anche perdonata? Sono riuscita a provare empatia, la provo tuttora per mia madre, perché a parte che vado in analisi, questa cosa mi aiuta tantissimo a capire che veramente non stava bene, veramente aveva dei problemi gravi e io nella sua situazione avrei avuto forse, no, bisogno di aiuto. Insomma, una persona che è stata lasciata completamente sola da un uomo che amava, dalla sua famiglia e dalla società. Non riesco bene a capire il concetto di perdono, perché non essendo cattolica, non ho mai praticato, credo che il perdono sia una cosa molto religiosa e io preferisco provare empatia e capire le persone anche in modo scientifico a volte, perché mia madre veramente aveva dei problemi mentali, delle malattie che scopriamo ogni giorno, no? Scopriamo delle cose ogni giorno su queste malattie. Il perdono è un'altra cosa, secondo me. Io faccio fatica a perdonare il gesto o la parola cattiva, ma invece riesco molto più facilmente a provare empatia, a capirla e a non provare rancore, a non provare odio. Queste cose me le sono lasciate alle spalle, credo, molti anni fa. Grazie a Emma Stoccolma, ora in libreria con Per il mio bene, pubblicato da HarperCollins. Un romanzo che, come abbiamo detto, racconta una storia vera e lo fa con una scrittura netta, pulita, che sicuramente non cede al sentimentalismo o al pietismo. Emma Stoccolma, Per il mio bene, HarperCollins. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Ma siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.